Roma Trastevere, 21 novembre 1973. Care Leuterio, la casa che vide due bambine suonare il pianoforte a quattro mani, una delle quali ero io, di bambine, non di mani, l'altra mia sorella, oggi vede due ragazze adulte che si consolano a vicenda. Sono triste, Leuterio. Mia sorella mi ha portato un cappuccino. Io penso che il cappuccino è un latte che ha ottenuto i primi risultati nella lotta contro il razzismo. Penso anche che sei un medioevale, Eleuterio. La riforma sanitaria è alla base della vita sociale e tu ne fai un motivo di lite. Sempre tua. Roma Parioli, 22 novembre 1973. Inopinabile, sempre mia. La matematica non è mai stata il tuo forte. Te e tua sorella insieme non potevate che eseguire sonate a otto mani. Da quando ho conosciuto tua sorella, ho ricominciato a dare ragione a Darwin. Le riforme vanno democraticamente discusse e approvate da tutti e due. E io non voglio riforme, Eleuterio. Ho scritto. Mettendo in ordine la mia cineteca, ho trovato una bobina vuota. Non potrebbe servire a tua sorella come bigodino per la coda? Roma Trastevere, 23 novembre 1973. Care Eleuterio, gatticchio. Icchio non in senso affettivo, ma irrisorio partenopeo, come nel caso di Avvocaticchio. Mia sorellina maggiore, per caso, ha saputo da me della faccenda della coda e così ha voluto leggere le parole esatte. Ora è di là che prepara legna per il caminetto. Di ogni ciocco ne fa due. Con un colpo della mano destra, di taglio, dice che prima o poi ti incontrerà e vuole essere pronta. Il canarino saltella nella gabbietta laccata di bianco. E io penso che una gabbia è solo una piccola rebibbia per il servizio a domicilio. La riforma sanitaria che tu non approvi avrebbe dovuto farti esclamare finalmente, anziché quello che hai detto tu, sempre tua. Roma Parioli, 24 novembre 1973. Inesplicabile, sempre mia, mi manchi. Non posso fare a meno di te. Senza i tuoi discorsi così squisitamente cretini e senza la tua presenza così difficilmente ignorabile, io non posso mormorare, povero me. Non posso sentirmi eroe e la cosa mi mette in crisi. Ho messo il paralume viola e un plaid sul frigorifero nell'illusione di ottenere qualche cosa che rassomigliasse a tua sorella e potermi sfogare. Ma il risultato è stato inutile. È venuta fuori una composizione troppo femminile. Torna. Qualcuno deve avere sostituito la tartaruga in terrazza con uno strano animale, assolutamente piatto e con quattro corna, due davanti e due di dietro. Eleuterio. Ho scritto. La portinaia ha chiarito la faccenda della tartaruga. È sempre la stessa. Era capovolta. Roma Parioli, 25 novembre 1973. Care Eleuterio, micione! Sono di nuovo qui dopo quattro giorni che ero lì e aspettavo che tu mi dicessi di tornare qui, se no sarei rimasta lì. E invece me lo hai detto e sono qui. Guardo con tenerezza il nostro letto matrimoniale. E io penso che il letto è un grande divano che, stanco di stare seduto, si è sdraiato. E penso anche alla nostra ultima lite, della quale ricordo tutti i particolari. Io stavo faticosamente lavorando, seduta in poltrona con un rotocalco in mano e tu rientravi dal lungo riposo dell'ufficio. Ciao. Ciao, Eleuterio. Sei proprio tu? Non sono proprio sicuro. Ma allora bisogna assicurarsene, Eleuterio, con tutto quello che succede oggi. Se non sei proprio tu, potrebbe essere chissà chi. Ma io mi domando perché ho incontrato te a quel famoso ricevimento. Se avessi incontrato tua sorella, non avrei corso rischi. Mezzo litro, una bella partita a bocce e tutto sarebbe finito lì. Tu invece la incredibile sfacciataggine di sembrare donna. Eleuterio, non ho capito se tenti di offendere me o mia sorella. Ti lascio libera scelta, ma sbrigati. Sbrigati, mi sono preso un dito nello sportello della macchina e tu mi fai perdere tempo con i tuoi pseudo discorsi. Dov'è l'alcol? Nel cassetto di cucina, vicino ai coltelli. Ma come sarebbe? Sarebbe che un po' d'ordine bisogna metterlo. Avevamo un'organizzazione sanitaria sbagliata, Eleuterio. L'alcol deve stare vicino ai coltelli, perché è con i coltelli che uno si ferisce. Me vado a prendere e portami anche una garza. La garza te la prendi da te. Ma nell'armadietto dei medicinali non c'è? Se fosse stato nell'armadietto dei medicinali l'avrei presa io, ma siccome per prenderla ci vuole la scala, ci devi pensare tu. È all'ultimo piano dell'armadio a muro in camera da letto. L'armadietto dei medicinali si apre troppo spesso e potrebbero entrare i bacilli. La garza deve essere sterile. Ma la garza è già sterile, è incartata. L'ho scartata? In caso di bisogno uno la deve avere a portata di mano. Non può mica stare lì a scartarla. Se non rimetti tutto in ordine io ti faccio vedere quello che succede. È tutto in ordine. L'aspirina è sulla tua scrivania perché il mal di testa ti viene quando la vuoi. Le fiale dell'estratto epatico sono nella scatola porta sigarette. Così quando fumi ti ricordi che devi fare la iniezione. E i tuoi tranquillanti sono nel mobile bar accanto al whisky. Così ogni volta che bevi, vedi tranquillanti e ti calmi. Anche mia sorella dice che va bene così. La rivoltella dove l'hai messa? La rivoltella non c'entra con l'assistenza sanitaria. Ma no, prova a darmela, poi vedrai se tu e tua sorella non avrete bisogno di assistenza sanitaria. Voglio la pistola. Calma, Eleuterio. Voglio la pistola, eccola qua. Ecco. Buone, Eleuterio, me ne vado. Eleuterio, carica! Punto! Torna da mia sorella! Ricordo tutto perfettamente, ma quando rientrerai farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio. Con mia sorella abbiamo pensato di rendere più razionale il tuo guardaroba.